Poiché una delle organizzazioni religiose più dedite a far proseliti sono i testimoni di Geova, è più che mai opportuno prendere in considerazione l'errore fondamentale sul quale tutto il movimento dei testimoni di Geova poggia. Se siamo in grado di trovare l'errore che determina tutti gli altri errori, in seguito saremo in grado di avere un colloquio costruttivo e avremo la possibilità di poter aiutare chi veramente ama la verità perché, come anche loro affermano, non ci è nulla da temere dalla verità. Dobbiamo riconoscere che, in generale, i testimoni di Geova sono persone dotate di zelo e perseveranza, che cercano di essere coerenti con i loro principi e hanno un forte senso comunitario. Questo aspetto da un lato è onorevole, ma non dobbiamo dimenticare che tutte le sette sono fedeli ai loro principi e hanno un forte senso comunitario. Il movimento dei testimoni di Geova non è sempre esistito come la fede giudeo-cristiana, e questo, se vogliamo essere obiettivi, è un fatto già sospetto. 2000 anni fa Gesù Cristo aveva avvertito che negli ultimi tempi sarebbero sorte false religioni. È perciò più che opportuno conoscere gli albori del movimento dei testimoni di Geova. Questo movimento ebbe inizio nella seconda metà del secolo scorso a Pittsburgh, negli Stati Uniti, per opera di Charles Taze Russell. La predicazione di questi fu segnata da un'decisa opposizione a tutte le religioni professatesi cristiane. I suoi scritti propongono una rilettura della Bibbia, tanto originale quanto arbitraria. A garantire l'enorme e rapido successo del movimento fu soprattutto l'annuncio dell'imminente restaurazione del regno di Geova. Le date di volta in volta, indicate da Russell e successori, furono il 1878, il 1914, il 1925 e il 1975. Date, ovviamente, dimostratesi false. Ciò che caratterizza ancora oggi l'opera dei seguaci di Russell è l'opposizione verso ogni altra forma di religione, l'attesa della distruzione di tutti coloro che non sono testimoni di Geova, l'esclusivo possesso della terra da parte di coloro che appartengono al loro movimento. Poiché non è mia intenzione entrare in merito alla vita del fondatore del movimento dei testimoni di Geova, poiché tra le tante assurdità da lui stabilite vi è quella che Gesù è già tornato in modo invisibile nel 1874, è più opportuno prendere in esame solo l'errore fondamentale della loro fede, e cioè il termine Geova e chi è Geova. Per chi fosse a digiuno delle scritture, i nomi più comuni della divinità del popolo di Israele in lingua ebraica sono Elohim, Adonai e Yahweh, quattro consonanti definite tetragramma, dalle quali i seguaci della Torre di Guardia hanno tratto il nome. Per brevità non spiegherò l'errore commesso nel leggere il tetragramma Geova, dato che la giusta lettura delle quattro consonanti è Yahweh. Per ora, comunque, useremo Geova per nominare la divinità di Israele, anche perché l'errore teologico fondamentale dei seguaci della Torre di Guardia non sta nel nome da questi attribuito alla divinità. Oltre ad aver stabilito delle date sbagliate nel campo profetico, Russell ha negato la legittimità di molte dottrine cristiane, tra le quali la sopravvivenza dello spirito dell'uomo dopo la morte, la della resurrezione fisica, il ritorno visibile di Cristo sulla terra e la dottrina della Trinità. Proprio in merito alla Trinità, è bene ricordare che Russell era ariano, come del resto anche alcuni altri fra coloro che si professano cristiani. Ariano è colui che sostiene, come faceva il prete Alessandrino Ario, morto nel 336 d.C., che solo il Padre può considerarsi veramente Dio, non generato, non creato, eterno e immutabile, negando, così, la divinità del Figlio, in quanto derivante dal Padre. Perciò i seguaci della Torre di Guardia sostengono che solo Geova è Dio e Gesù, suo Figlio, è sì Dio, ma un Dio inferiore, proprio perché è Figlio di Dio. Essendo figlio, sempre secondo i seguaci della Torre di Guardia, Gesù Cristo è nato dopo, è stato generato come la prima creatura dal Padre. Perciò non è eterno. Con simile visione, a spada tratta i testimoni di Geova affermano che Dio è Geova e nessun altro è Dio. Per loro, sostenere che qualcun altro sia Dio è un'offesa a Geova. e proprio perché la ritengono un'offesa, predicano ovunque con ardore e convinzione l'unicità della divinità di Geova, negando contemporaneamente che il Dio dei cristiani sia trino, che in seno alla divinità sussistono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Spesso i cristiani sono imbarazzati a spiegare la Trinità non avendo dei grandi argomenti persuasivi, e per questo il confronto con i testimoni di Geova purtroppo si riduce in diatribe non costruttive, vertenti, su argomenti inefficaci per far comprendere il loro errore teologico di base. Prendiamo ora in esame ciò che ogni cristiano dovrebbe dire a un testimone di Geova. Una verità indiscutibile, accettata anche dai testimoni della torre di guardia, consiste nel fatto che Geova è l'unico Dio, l'unico ad essere il Santo di Israele, l'unico Dio giusto, l'unico Salvatore. La parola di Dio in merito non lascia dubbi. Isaia 43, 3. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Isaia 43, 11, 12. Io sono l'Eterno, e all'infuori di me non c'art e Salvatore. Io ho annunciato, salvato e proclamato, e non c'era alcun Dio straniero tra di voi, perciò voi siete miei testimoni, dice l'Eterno, e io sono Dio. Isa 45, 21. Annunziatelo e presentate le vostre ragioni, sì, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo? Non sono forse io? L'Eterno? Non fe altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è che e nessuno fuori di me. Dopo la lettura di queste affermazioni da parte della divinità di Israele, non è possibile pensare di aver capito male. Solo l'Eterno, cioè Yahweh o Geova, è il Salvatore. Affermare che vi è un altro Salvatore oltre Geova è una bestemmia. Eppure quando leggiamo i Vangeli e le lettere degli Apostoli, troviamo delle testimonianze che a dir poco sconvolgono chi non ha un giusto approccio alla parola di Dio. Prendiamo una sola dichiarazione dell'Apostolo Paolo nella lettera a Tito. Al capitolo 1 e versetti da 1 a 4. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio, e la conoscenza della verità che è secondo pietà nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio che non può mentire e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio nostro Salvatore, a Tito mio vero figlio nella comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signor Gesù Cristo. Paolo inizia la sua lettera dicendo che il suo mandato di predicare gli era stato affidato da Dio nostro Salvatore. E questo concorda con tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento. Solo Geova è Dio, solo Geova è il Salvatore. Ma poche parole dopo, Paolo dichiara che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Dicendo questo, Paolo dichiara non solo che Gesù Cristo è Dio, ma che in qualità di Salvatore è anche Geova. Questa interpretazione non è sforzata, perché tutto il Nuovo Testamento enuncia che l'unico Salvatore è Gesù Cristo, che egli è morto per i nostri peccati, che chi crede in lui è perdonato da tutti i peccati e viene salvato. Quando il carceriere di Filippi chiese a Paolo cosa doveva fare per essere salvato, l'apostolo rispose: "Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua." Atti 16 e 31. Non è certamente un messaggio esclusivo di Paolo, perché anche l'apostolo Pietro dichiarò davanti al Sinedrio: e in nessun altro vi è la salvezza, poiché non ci è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Atti 4 e 12. Dunque solo Gesù Cristo salva e può salvare. Come conciliare allora il fatto che solo Geova salva ed è il Salvatore, mentre il messaggio degli apostoli era che solo Gesù poteva salvare? Come conciliare che Geova è Dio, mentre i primi cristiani sostenevano che Gesù Cristo è Dio? Se accettiamo che gli apostoli erano ispirati quanto i profeti, se accettiamo che la parola di Dio non può contraddirsi, allora l'unica spiegazione, e veramente l'unica, è che Gesù sia Geova, cioè la divinità dell'Antico Testamento. Facendo presente questa conclusione ai testimoni di Geova, ne ho visti alcuni a dir poco impallidire, poiché per i seguaci della torre di guardia Geova è il Padre e Gesù Cristo è il Figlio di Dio, cioè di Geova, per loro è impossibile, con una simile struttura teologica, con dei simili presupposti, comprendere che Gesù sia Dio e tanto meno Geova. Pur di non ammettere che Gesù è Geova, alcuni sostengono ciò che non possono sostenere, e cioè che vi sono due salvatori. Questo è assurdo. Perciò, chi desidera presentare il Vangelo ai testimoni di Geova, se vuole arrivare al dunque, deve chiedere come sia possibile che esistano due salvatori e spiegare che Geova non è il Padre, ma Gesù Cristo. Questo presupposto, questa verità, è la tomba dell'organizzazione dei testimoni di Geova. Succede però che perfino alcuni figli di Dio fanno fatica ad accettare che Yahweh o Geova sia Gesù Cristo, perché se la divinità dell'Antico Testamento è il Figlio di Dio, pensano di mettere in ombra la persona del Padre. Se il Figlio di Dio è colui che ha creato, ha parlato con i profeti, se era colui che si è rivelato a Mosè al prune al monte Sinai, dove è dunque la presenza del Padre, si chiedono. Una cosa è certa. Gesù disse, poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre, chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Giovanni 5, 22-23. Onorare Gesù Cristo significa riconoscerlo come Dio, come Re, Signore e Salvatore. Chi riconosce che Gesù Cristo è la divinità dell'Antico Testamento, che è Geova, onora non solo Lui, ma anche il Padre. Che tutti, seguaci della torre di guardia e cristiani, possano riconoscere l'unico Dio che è degno di essere adorato e servito, Gesù Cristo, colui che è Yahweh, o Geova. Giugno 2004. Contributo. Nuove evidenze che richiedono un verdetto edizioni CE Nuovo Testamento RO biblico Josh McDowell. L'unicità di Gesù Cristo, Nala GBU, Chris Wright, Ellero.